Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. In attesa del referendum del 21, sistemi parlamentari a confronto, Stati Uniti, Israele, India e poi una nuova, vecchia minaccia elettorale. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. And there's another system of government that we're really going to focus on, and that's the difference between a parliamentary system of government and a presidential system of government. The Union Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, una nuova puntata, l'ultima della settimana, di Nessun Luogo è Lontano. Anche quest'oggi far ruotare il mappamondo per raccontarvi fatti e luoghi che arrivano da lontano. Questa è la nostra missione. Con me naturalmente ci sono, come ogni giorno, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in console Roberta Frisani. 349-238-6666, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, per commentare, per porre domande sul tema che vi propongo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Complice l'avvicinarsi e l'arena politica che si scalda, parlo dell'appuntamento elettorale, in particolare referendario del 21 qui in Italia, faremo una brevissima ricognizione su alcuni sistemi parlamentari. Visto che la trasmissione si chiama Nessun Luogo Lontano, abbiamo volutamente evitato di parlare dei sistemi europei. Vi racconteremo quello statunitense, quello israeliano, quello indiano, cercando di capire anche se tra questi esempi vi è qualche virtuoso campione di efficienza ed efficacia nel andare a sostenere, accogliere tutte le istanze democratiche e a trasformarle poi naturalmente in leggi e successivamente in buon governo. Su tutto c'è una minaccia, l'abbiamo chiamata una nuova vecchia minaccia. Sono attacchi hacker, arriverebbero, indovinate un po' da dove, non ve lo dico, ve lo racconterò più tardi nel proseguo della trasmissione, ma prima di partire in questo lungo viaggio andiamo a sfogliare i nostri dossier. Il primo sempre caldo si riallaccia alla puntata di ieri di Nessun Luogo Lontano, Mare Nostrum, ma di chi è il Mediterraneo? Beh, sicuramente Grecia e Turchia ci stanno mettendo del loro, continua il braccio di ferro e vengono affilate soprattutto anche le armi diplomatiche, non che il linguaggio di Ankara rispecchi perfettamente le liturgie appunto diplomatiche. Gli ultimi comunicati che arrivano appunto da Ankara dicono: invitiamo la Grecia a rinunciare alle sue pretese massimaliste di sovranità marittima e contrarie al diritto internazionale. Per ridurre la tensione, continuano i portavoce del governo di Ankara, è necessario che la Grecia allontani le sue navi militari dalla nostra nave di ricerca sismica Oruç Reis, che sostenga l'iniziativa di deconflitto della NATO e che smetta di armare le isole dell'Egeo orientale, compresa Castello Rizzo, e ponga fine alle crescenti pressioni sulla minoranza turca nella Tracia occidentale. La nota è stata firmata dal portavoce del Ministero degli Esteri turco. In più poi c'è un invito ad Atene a sedersi al tavolo dei negoziati senza alcuna precondizione. Peraltro ricordo che le evocate sanzioni contro la Turchia potrebbero essere discusse al Consiglio europeo del 24-25 settembre, quindi è evidente che in vista di quella data Ankara sta cercando di mettere in campo più armi diplomatiche possibili. A proposito di de-escalation, proviamo a rimettere anche quella prossima vicenda che vi racconto nell'alveo di questo più grande cappello. Cina e India sono ai ferri corti da parecchio tempo sul tetto del mondo, in particolare il confine conteso del Ladakh. Pechino e Delhi avrebbero trovato un accordo per disimpegnarsi velocemente dallo stallo che è in corso nella frontiera. In particolare il ministro degli esteri cinese Wang Yi e il suo omologo indiano Subramaniam Jaishankar si sono incontrati a Mosca nell'ambito di un summit della Shanghai Cooperation Organization. È un organismo internazionale, un consesso che riunisce tutte le nazioni che si affacciano sull'Asia centrale. Sostanzialmente si andrà a ridiscutere il riposizionamento delle truppe e degli assetti militari in quella che è la linea di controllo effettiva, cioè quel confine tra le due nazioni, conteso, che non ha mai trovato una soluzione. Lo ricordiamo, quest'estate uccisi almeno 20 soldati indiani, un numero imprecisato di soldati cinesi, e recentemente vi raccontavamo di un acuirsi di quella crisi con scambi e colpi di arma da fuoco. Si sviluppa e prosegue invece piuttosto lentamente la risoluzione dei 12.000 migranti che sono bloccati nell'isola di Lesbo dopo l'incendio. Si sta muovendo la macchina europea. Ieri la Polonia ha offerto 156 case prefabbricate per i rifugiati, il che si aggiunge a già l'invio di altri paesi europei, assistenza umanitaria non solo, Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Paesi Bassi e Francia. In tutto sono stati offerti 90.000 articoli attraverso un meccanismo di assistenza comunitaria. E poi, prima di raccontarvi cosa sta accadendo in Bielorussia e darvi anche la possibilità di ascoltare la voce di una dissidente proprio da Minsk, vi do conto, è passato un po' in sordina, la notizia è fresca in verità, ma ricorderete le varie proteste popolari che si sono succedute a Tripoli per la mancanza di acqua, di elettricità, per il governo ritenuto a volte molto fragile e non capace di dare risposta alle esigenze della popolazione. Ebbene, anche dall'altra parte, anche in Cirenaica, Bengasi è scesa in piazza, in particolare la popolazione più giovane. A dare notizia è il quotidiano libico Al-Wasat, che dice che, senza dare i numeri in realtà, un gruppo di cittadini ha manifestato contro il malservizio offerto dal fragile governo. La protesta è stata piuttosto vivace, sono stati bruciati pneumatici, sono stati bloccati alcune strade, gli slogan tuonavano contro la corruzione e l'ingiustizia e richiedevano a gran voce la caduta di tutte le istituzioni statali. A seguito di questo il presidente del Parlamento di Tobruk, Ghila Saleh, ha convocato il primo ministro ad interim più varie alte autorità per cercare di dare una risposta immediata. È chiaro che se anche Bengasi, anche la Cirenaica, dovesse iniziare a soffrire di malcontento popolare, beh, a quel punto l'ago della bilancia tra le due Libie potrebbe pendere in maniera molto molto corposa verso Tripoli. E poi vi dicevo in Bielorussia, perché le agenzie stanno battendo la notizia che Lukashenko avrà la sua visita, andrà a Mosca il 14 settembre, e quindi lunedì prossimo, e vedrà Putin. La sapete, la situazione di Lukashenko per molti analisti è attaccata a un filo. Russia che potrebbe sostenere Lukashenko in maniera molto più corposa e, come dire, accoglierla in un abbraccio che forse farebbe un po' più dispiacere all'Europa. Qual è la situazione? Abbiamo raggiunto una testimone d'eccezione, che è Natalia Satsunkevich, è attivista per un'ONG piuttosto importante, la Vyazna Human Rights Center, che ci descrive immediatamente qual è la situazione in questo momento in Bielorussia. Sentite. In Bielorussia la situazione in relazione ai diritti umani è sempre stata difficile, ma negli ultimi mesi è in atto una profonda crisi al riguardo, che colpisce quasi ogni aspetto dei diritti civili e politici, portando gravi violazioni dei diritti di migliaia di cittadini, con detenzioni arbitrarie, soprusi e torture. Ieri c'è stata una dichiarazione congiunta delle organizzazioni per i diritti umani su Maria Kolesnikova e su altri attivisti prigionieri politici, con la quale è stato richiesto l'immediato rilascio. Attualmente in Bielorussia ci sono più di 50 detenuti per ragioni politiche. La maggior parte di loro è incarcerata ai sensi dell'articolo 293 del Codice Penale, che fa riferimento alle rivolte di massa violente. Il problema è che attualmente in Bielorussia non è in atto alcuna rivolta violenta, ma solo proteste pacifiche. Con l'ONG Vyazna Human Rights Center monitoriamo queste proteste, anche se io personalmente non vi ho mai preso parte di persona. Il motivo è che mi sento in pericolo e sono costretta quindi a scegliere se fare il mio lavoro e stare al sicuro o prendere parte alle manifestazioni e rischiare. Purtroppo abbiamo assistito all'arresto di molti partecipanti ad assemblee pacifiche che hanno subito processi amministrativi. La voce che avete appena sentito è quella di Natalia Satsunkevich, attivista di Vyazna Human Rights Center, una ONG che si occupa proprio del rispetto dei diritti in Bielorussia. Abbiamo molto spesso tentato un collegamento, un parallelismo, quantomeno provato a comparare le due situazioni, quella dell'Ucraina 2014, le piazze, la piazza di Kiev soprattutto, e quello invece che sta accadendo in Bielorussia. Una delle cose che saltavano soprattutto all'occhio era una corposa presenza in Ucraina di bandiere dell'Unione Europea e una decisa, se non assenza, quantomeno modesta presenza invece di bandiere azzurre. Sentite che cosa risponde l'attivista di questa ONG. È vero, il fronte dei manifestanti è unito e a differenza delle proteste in Ucraina non c'è una divisione tra europeisti e coloro che invece preferiscono essere più vicini politicamente alla Russia. Il punto è che queste proteste chiedono il cambiamento del sistema politico interno alla Bielorussia senza per forza guardare al modello russo o a quello europeo. La specificità delle rivolte di piazza ormai più di un mese in Bielorussia, a Minsk in particolare, ma non solo, uno degli slogan intonati dai manifestanti era né con la Russia né con l'Europa, ancora una volta a sostanziare, a dare corpo in maniera molto plastica a quella che è l'identità bielorussa. Però Lukashenko ha recentemente dichiarato in un'intervista a una televisione russa cose piuttosto forti: se la Bielorussia cade, la Russia sarà la prossima. Come ONG, evidentemente, gli attivisti hanno anche collegamenti con i loro colleghi, col terzo settore che lavora in Russia. È possibile questo strano, forse improbabile voltapagina, cesura storica che Lukashenko paventa? Sentite che cosa dice ancora una volta la Satsunkevich. C'è una forte e solida connessione tra le diverse ONG russe e bielorusse, ma si tratta di una domanda molto difficile a cui rispondere. Infatti, nonostante le profonde connessioni culturali, la società civile russa è molto diversa da quella bielorussa. Inoltre, nessuno qui a Minsk si sarebbe mai aspettato delle proteste così durature e massicce. Il tutto è stato imprevedibile. Questa la voce, l'analisi, il commento di Natalia Satsunkevich. L'ONG è Vyazna Human Rights Center, da Minsk, raggiunta pochissimi minuti fa dal nostro Andrea Macchioni. Mentre intanto Antonio Talia aggiunge corpo al dossier già piuttosto caldo che riguarda le tensioni fra Turchia e Grecia, perché pochi minuti fa, ne dà notizia l'ANSA, la Turchia ha diffuso un nuovo avviso ai naviganti, tecnicamente Naftex, che sarà operativo da domani a lunedì: esercitazioni militari nelle acque a nord di Cipro. Naturalmente questa è soltanto l'ultima mossa di una serie di esercitazioni che vengono annunciate e prontamente poi messe in atto dalla Turchia. È evidente che in vista di quel Consiglio europeo dove si potrebbero discutere sanzioni, Ankara sta cercando, sia con linguaggio diplomatico, ve lo raccontavo prima, ma anche con una presenza, come al solito, un po' più muscolare, di alzare l'asticella. Questo è il nostro lungo, corposo capitolo, tutto dedicato ai dossier internazionali. Sono fatti notizie dai quattro angoli del globo che sono state puntate in sul luogo e lo diventeranno ragionevolmente nei prossimi giorni. A questo punto però andiamo negli Stati Uniti. Mentre viaggiamo virtualmente, evidentemente rispondo a un ascoltatore che dice in maniera piuttosto perentoria: dovete smetterla di parlare di conflitto tra Grecia e Turchia, è un conflitto tra Turchia e comunità europea. Le perplessità che mettete avanti come interessi economici dell'Italia con la Turchia, bisogna cominciare a parlare di interessi europei, perché anche altri paesi hanno interessi economici, ma bisogna smetterla di essere condizionate dai turchi. L'Europa ha le armi per affrontare diversamente la Turchia. Guardi, gentile ascoltatore, proprio nella scorsa puntata, ieri, qui a Nessun Luogo Lontano, abbiamo messo il grand'angolo, come amiamo dire noi. Abbiamo parlato di tutti gli attori presenti, abbiamo parlato del ruolo dell'Europa, abbiamo provato a discutere su quanto sensibile e nevralgico sia anche il dossier del ormai difficile ingresso della Turchia appunto in Europa. Però al momento il casus belli è senza dubbio le zone economiche esclusive, l'acqua, il Mediterraneo, soprattutto quelle zone antistanti tra l'Egeo e la Turchia, quelle piccole isole greche che tanto fanno venire il mal di pancia alla costa turca, che in alcuni casi dista pochi chilometri. 349-238-6666 per i vostri messaggi, i vostri commenti. Intanto do il buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Roberto Dalimonte, insegna sistema politico italiano alla LUISS di Roma, è un politologo esperto di sistemi elettorali. Professor Dalimonte, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a voi. Professore, lei ci soccorrerà, è il primo tassello, la prima tappa, se preferisce, di questo viaggio in cui proveremo ad analizzare molto brevemente alcuni sistemi elettorali e politici, in particolare quello statunitense, quello indiano, quindi le due più grandi democrazie del mondo, e poi quello israeliano che è, a detta di molti, senza tema di smentita, l'unica democrazia vera del Medio Oriente, ma ha un sistema monocamerale, quindi alcune specificità. Il tutto perché? Perché il 21, come sa meglio di noi, evidentemente c'è il referendum per la diminuzione dei parlamentari qui in Italia. Qui a Nessun Luogo, un programma di esteri, vogliamo offrire qualche metro di paragone in giro per il mondo. Quindi partirei con lei, professore, dal sistema politico statunitense. Il Congresso è un'assemblea che suddivisa in due camere, chiaramente un sistema presidenziale, quindi ha delle sue specificità. La prima domanda che le farei è se nel dibattito politico americano si parla mai di riduzione, per esempio, dei parlamentari, dei membri, o se tra i politologi, ma anche tra i cittadini, è considerato un sistema efficacemente rappresentativo. Non se ne parla assolutamente di riduzione del numero dei parlamentari, né quelli della Camera né quelli del Senato, e sì, viene largamente considerato come un sistema rappresentativo. Ma la cosa più interessante ancora è che non viene nemmeno messo in discussione il fatto che i sistemi elettorali, essendo sistemi maggioritari, sì, e che il sistema per l'elezione del Presidente della Repubblica è un sistema per cui il Presidente potrebbe non essere eletto dalla maggioranza degli elettori, come sì, è già successo un paio di volte. Sì. Recentemente. Sì. Quindi viene accettato. E, dal punto di vista invece del dibattito dei politologi, degli studiosi di scienze politiche, vengono rilevate, come dire, dei vizi, delle inefficace, un inefficace sistema di rappresentatività. In parte l'ho un po' anticipato, che a volte succede che, come dire, un futuro presidente prenda meno voti dell'altro candidato e poi venga eletto. Ma stando alla rappresentanza parlamentare, secondo lei, dato il numero di abitanti e dato il numero dei membri, 435 per una Camera, 100 per l'altro, è adeguatamente rappresentativo? Sì, lo viene considerato, come ho detto, non c'è una discussione in realtà su questo tema. Il tema non esiste nell'agenda politica. Ci sono altri temi legati alla rappresentanza col sistema elettorale più in generale, che sono, soprattutto adesso, sono diventati ancora più oggetto di dibattito, soprattutto il fatto che il sistema con cui viene eletto il Presidente degli Stati Uniti è un sistema elettorale che non è gestito dal governo federale, è gestito da 50 stati, sì, con delle norme che sono anche arcaiche, sibilline, complicate, diverse da uno Stato all'altro, e questo soprattutto alla luce di quello che potrà succedere il 3 novembre è diventato una questione di dibattito, non a livello di massa popolare, sì, ma tra l'elite, fra gli intellettuali, gli studiosi, e alla fine ci si è accorti che forse qualcosa dovrebbe essere fatto per uniformare le procedure. La voce, il commento, l'analisi del professor Roberto Dalimonte, politologo, esperto di sistemi elettorali, insegna sistema politico italiano alla LUISS di Roma, e quindi sono certo che in questo momento sta scaldando i muscoli in vista, professore, del nostro appuntamento referendario del 21. È anche vero, e faceva molto bene a citare, quello che è invece il grande appuntamento elettorale del 3 novembre. 349-238-6666 per i vostri messaggi e i vostri commenti. Francesca, quanto senso ha paragonare le istituzioni federali statunitensi con competenze limitate con il sistema italiano? Ha perfettamente ragione, e proprio per questo ho anticipato, vuole essere un tassello di conoscenza, se no avremmo dovuto fare una panoramica, per esempio, su paesi molto più vicini, i cugini europei o la Germania, ma sono realtà che forse conosciamo molto molto meglio. Magari quella statunitense è più nota, anche se farraginosa, quella indiana forse meno nota, quella israeliana delle specificità che secondo noi vale la pena sottolineare. Professor Dalimonte, approfitto della sua competenza per un'ultima domanda, che non vuole essere assolutamente una previsione su quello che accadrà il 3 novembre, perché sarà davvero imprescrutabile, ma lei si immagina, nel caso di una vittoria dei democratici, anche una messa in discussione di questo sistema elettorale cui lei faceva riferimento, i grandi elettori, eccetera? Potrebbe essere messo in discussione. Quello che potrebbe essere messo in discussione è addirittura l'esito del voto, perché questa volta lo scenario possibile che la sera del 3 novembre, la notte del 3 novembre, sì, si possa avere un risultato che riguarda i voti contati nei seggi, ma non ancora i milioni di voti che arriveranno per posta, che sono già arrivati per posta, per cui ci potrebbe essere un vincitore, tra virgolette vincitore, temporaneo, sì, annunciato sulla base dei conteggi, sì, dei seggi, e questo risultato potrebbe essere ribaltato quando si conteranno anche i voti per posta, e questo secondo me già Trump ha messo le mani avanti, parla di un voto rubato, parla di che i voti postali sono passibili di frode e così via, per cui ci potrebbe essere una situazione molto tesa. E questo, certo, questo professore, sarebbe naturalmente un disastro per la credibilità di queste future elezioni. Certo, il presidente su questo tasto ha battuto, è già parecchio, è già duro, e ha fatto benissimo a ricordarlo. Avete sentito la voce del professor Roberto Dalimonte, Luis di Roma, che ringrazio. Buona giornata, professore. Grazie a voi. Grazie mille. E alla prossima. C'è qualcuno che è particolarmente allergico all'allocuzione che abbiamo utilizzato riguardo alla grande democrazia israeliana in Medio Oriente. L'ascoltatore dice: dovete aggiungere solo per gli ebrei, perché per i palestinesi ci sono solo l'occupazione e i checkpoint. Grazie, il messaggio arriva peraltro da un palestinese. Non abbiamo mai nascosto quella che è la feroce problematica dei territori occupati. Ci andremo tra pochissimo, del West Bank, della striscia di Gaza. Chi vi parla peraltro ha passato oltre un mese nella sola Hebron proprio per documentare quella che è la vita quotidiana estremamente difficoltosa tra un checkpoint e l'altro, soprattutto per le fasce di popolazione più vulnerabili. Detto ciò, in senso assolutamente stretto, la Knesset e il sistema elettorale israeliano, il sistema politico è assolutamente democratico. Certo, ci sono quei dossier, quelle ferite apertissime che vedremo se la leadership israeliana riuscirà a sanare. Non voglio aprire questa parentesi, abbiamo dedicato tante puntate nella scorsa stagione e lo faremo anche in questa, ve lo prometto, ma quest'oggi proviamo in qualche modo, per di più può sembrare un esercizio stilistico, un esercizio intellettuale, ma provare semplicemente ad aggiungere qualche tassello di conoscenza su grandi sistemi politici nel mondo, molto lontani, molto diversi tra di loro, mentre noi ci approcciamo ad andare a votare il 21 per decidere o meno se ridurre il numero dei parlamentari. 349-238-6666. Prima di proseguire in questo viaggio, vi propongo un ulteriore viaggio nel viaggio. Antonio Tali ha provato in 90 secondi a raccontarvi brevemente come funziona. Sapete dove? Beh, quasi in tutto il mondo. Sentite. In India esiste un sistema democratico organizzato su tre livelli: quello centrale federale, quello statale regionale e infine il livello locale. A livello centrale c'è il Parlamento indiano, formato da due camere, la Camera del Popolo, Lok Sabha, ed il Consiglio degli Stati, Rajya Sabha. La Camera del Popolo è formata da 545 membri, il cui mandato dura 5 anni, e sono rappresentanti eletti direttamente dai cittadini. Per quanto riguarda il Rajya Sabha, invece, anche chiamato Camera Alta, i membri sono 245, di cui 233 sono eletti dalle assemblee elettive statali mediante voto unico trasferibile, mentre 12 sono nominati dal presidente. I membri della Camera Alta hanno un mandato di 6 anni. Ciò nonostante, un terzo del totale cambia ogni 2 anni, quindi non è soggetta a scioglimento. L'intero sistema è caratterizzato da una complessa decentralizzazione del potere a livello statale, regionale e locale. Quindi c'è una decentralizzazione dei poteri a tutti i livelli. In India vige una democrazia che si articola su tre piani. Ora, a proposito della rappresentatività, viene regolata da norme del 1950, 1951 e 2002. Mentre le prime due leggi regolano ogni aspetto della competizione elettorale, la legge del 2002 assicura la rappresentatività del singolo Stato, quindi l'elettorato o l'assemblea del singolo Stato vengono individuati attraverso questa norma che risale al 2002 sulla base della popolazione. Allo stesso modo, gli articoli 30 e 30A della Costituzione indiana garantiscono una rappresentatività delle minoranze, quindi ad esempio un certo numero di seggi viene riservato a una certa comunità che può coincidere con una casta e questa logica si ripropone a livello locale. Una quota viene riservata anche alle donne, quindi in alcuni casi si assiste all'incrocio tra due quote riservate. Come qualsiasi altro sistema, anche quello indiano non è perfetto. Ci sono alcuni difetti. Prima di tutto il sistema elettorale della Camera Bassa è a collegio uninominale, a turno unico, il che rischia di non dare una rappresentazione fedele dell'elettorato. Non avendo mai sperimentato un sistema elettorale diverso, non sappiamo quali possano essere gli effetti di un sistema proporzionale. In secondo luogo, al momento non è obbligatoria una quota di rappresentanza delle donne a livello federale e statale. Una legge al riguardo è da tempo in discussione in Parlamento, ma non sappiamo quando verrà votata e di conseguenza il sistema è ancora poco inclusivo rispetto a gruppi tendenzialmente più emarginati della società. Il nostro viaggio è iniziato come preannunciato dall'India. Avete appena sentito una sintesi di una lunga chiacchierata che ha fatto Andrea Macchioni con un assistente universitario, un dottorando alla Jawaharlal Nehru University di Nuova Delhi. Lui si chiama Neeraji Kumar ed è proprio un esperto di sistemi sociali e di sistemi politici indiani. Prima tappa appunto l'India, la più grande democrazia nel mondo. Adesso una piccola pausa, l'informazione finanziaria e poi torniamo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun luogo è lontano. Chiudiamo la settimana cercando di offrirvi qualche dato comparato, qualche modello di riferimento a sistema, questo in vista del referendum del 21. Stiamo toccando comunque paesi, lo ripeto, l'India, l'avete appena sentito, gli Stati Uniti in apertura, tra pochissimo andremo in Israele, che ci consegnano comunque dal punto di vista della grande attualità internazionale dei seri, a volte drammatici motivi di cronaca, come avete sentito anche dal GR, il prossimo lockdown che avverrà in Israele. Però quest'oggi stiamo cercando di parlare di rappresentatività, dell'efficienza dei processi legislativi, ma anche naturalmente dei costi. Tra pochissimo daremo un po' di numeri appunto dai quattro angoli del globo. Intanto un'ascoltatrice da Napoli, Lidia, risponde all'ascoltatore precedente e dice: ricorderei l'ascoltatore di prima che gli arabi sono presenti nella Knesset, significherà qualcosa? Avrei dubbi a parti invertite. Così un ascoltatore su Facebook che ricorda che nel Parlamento israeliano siedono anche i partiti arabi, forse uno dei pochi posti dove i cittadini arabi possono votare democraticamente, così almeno mi sembra, chiude il commento questo ascoltatore. E allora facciamo così, andiamo appunto in Israele, andiamo a Gerusalemme, lo facciamo con la voce di Nello Del Gatto, cronista di Agi. Nello, buongiorno, ben ritrovato qui a Nessun luogo lontano. Buongiorno a voi. Nello, gioco forza, chiederti anche lumi su quello che il lockdown ha annunciato. Se non erro, domenica verrà annunciata una nuova stretta, 2 settimane, il primo paese al mondo che fa questo gigantesco passo indietro a causa dei numeri del coronavirus. Che aria tira in questo momento a Gerusalemme? Ma da un po' di tempo insomma che ci sono questi l'aumento di casi, noi abbiamo avuto un altro ieri oltre 4.000 casi. Il tutto è cominciato con l'allentamento dei controlli, perché voi considerate che noi dal 28 di agosto abbiamo le scuole aperte, in più sono stati aperti i voli che invece rimanevano chiusi anche con alcuni paesi europei, vedi per esempio la Grecia con la possibilità di entrare nel paese senza fare controlli. In più c'è stata una bella stagione di matrimoni che non ha guastato sia la parte araba che la parte palestinese, sì. Quindi questo ovviamente ha creato non pochi problemi, insomma. La voce di Nello Delgato arriva da Gerusalemme, i suoi resoconti arrivano tramite l'agenzia giornalistica Italia. Da un lato appunto c'è la stretta cronaca che impone anche alla politica una riflessione e decisioni dolorose, come il lockdown di 2 settimane che si vede già all'orizzonte appunto per lo Stato di Israele. Però dall'altra parte, Nello, ti chiediamo di togliere i panni del cronista e mettere un po' quelli del politologo, se vuoi, perché il sistema monocamerale israeliano è un bell'unicum che forse vale la pena di esplorare. C'è solo una camera, appunto la Knesset, gli ascoltatori ricordavano anche la presenza dei cittadini arabi, e sono arabi israeliani. Esiste un dibattito in Israele per la riduzione dei membri del Parlamento? Se ne è mai parlato, ma soprattutto ce ne sarebbe bisogno? No, a parte che i membri del Parlamento, insomma, sono 120, anche perché ricordano l'antica assemblea degli scribi, quindi non un'assemblea elettiva, ma comunque, insomma, storicamente è un numero importante, quindi difficilmente si è discusso di questo e difficilmente si discuterà. Si discute invece, e ci sono state delle modifiche nel corso degli anni, sulla questione dello sbarramento, perché attualmente lo sbarramento è del 3,25%. Ricordiamo che qui è un sistema proporzionale con il quale praticamente soltanto coloro che riescono a superare questo sbarramento poi riescono ad accedere, sì, al Parlamento. Il punto è che però questo sbarramento non dà un grosso, scusatemi la ripetizione, sbarramento, perché fino adesso su 120 parlamentari comunque sempre una decina di partiti riescono ad entrare, e questo comporta il fatto che nessuno riesce ad avere la maggioranza, certo, nel paese, per cui tutti i governi sono tutti quanti governi di coalizione. Quindi si discute più che altro su questo, come si è discusso fino a poco tempo fa anche della questione, quella che loro chiamavano la legge norvegese, perché insomma è uguale a quella della Norvegia, della possibilità per i parlamentari che vengono nominati nel governo di dimettersi, far entrare un altro parlamentare, però poi rientrare in carica quando finiscono il loro mandato governativo. Questo è stato approvato da poco, anche se però c'è stata la riduzione ad una sola persona per partito, quindi insomma almeno una cosa del genere, perché sennò si diceva sempre che si parla di una stessa persona. La Knesset funziona bene qui, nel senso che ha una buona reputazione, sì, tra i cittadini, anche, sì, perché, come giustamente dicevate, ha una grande rappresentatività, anche, sì, dei partiti arabi per esempio, sì, e soprattutto perché è governata anche da commissioni. Ha più o meno le funzioni che ha anche il nostro Parlamento, perché elegge il Presidente, approva il Primo Ministro, eventualmente devono fare anche il voto il confidence vote del Primo Ministro, insomma la fiducia gli devono dare oppure gliela tolgono, quindi ha un grosso potere e tutte le leggi vengono approvate dal Parlamento. Sì. L'unica questione è appunto questa qui della rappresentatività per garantire una governabilità del paese, che come voi sapete, sì, perché abbiamo parlato abbastanza, insomma negli ultimi tempi non è stato purtroppo così. Decisamente no, un filo di ironia nella voce di Nello Delgato, lo ricordo, lavora per Agi, racconta a Israele, viaggia tra Gerusalemme ma anche in Cisgiordania. Quest'oggi lo stiamo facendo vestire i doppi panni: da un lato il cronista che consuma gli scarponi e dall'altro invece il politologo, quello che consuma gli occhi a forza di leggere gli articoli, a capire se vi siano motivi di inefficienza in un sistema parlamentare. Ci ha raccontato Nello Delgato con grande precisione la Knesset, 120 membri, lo sbarramento al 3,5%, sembra tutto particolarmente virtuoso, salvo poi appunto la... quasi non vorrei dire l'eccesso di rappresentatività delle varie forze politiche, ma sicuramente costringe il sistema politico israeliano a sempre dei governi di coalizione, e qua forse casca l'asino, ben sottolineato da Nello Delgato, che è stato tante volte nostro ospite nelle scorse puntate. Peraltro, Nello, mi segnalano che pochi minuti fa il Bahrain ha annunciato che normalizzerà le relazioni con Israele. Infatti il principe Salman bin Hamad Al Khalifa sarà domani a Washington, e lo ha riferito il corrispondente da Washington proprio della TV pubblica israeliana. Prosegue, qua cambiamo ancora una volta pagina, torniamo un po' nella natura precipua di Nessun Luogo Lontano, procede questo processo di normalizzazione di Israele con il mondo arabo, con tanti mal di pancia da parte dei palestinesi. Ma sì, è così, anche perché io mi sono fatto un'idea. L'idea che mi sono fatto è che Israele sta acquistando quegli spazi che i palestinesi gli hanno lasciato, perché obiettivamente il governo palestinese ha agito male negli ultimi anni e è un governo che non merita i palestinesi, il popolo che ha, perché il popolo palestinese, per la sua battaglia di sopravvivenza, perché di questo parliamo oramai, sì, ha bisogno di un governo sicuramente più forte. Israele fa bene, fa benissimo a fare quello che fa con i paesi arabi, fa davvero bene. Il punto è che dall'altro lato la Palestina non sa che pesci prendere, perché nei giorni scorsi, ad esempio, il presidente Abu Mazen aveva innanzitutto chiesto di non fare più manifestazioni contro l'accordo con gli Emirati Arabi e poi si è rammaricato della scelta fatta dalla Lega Araba. Ma oramai non è più possibile qualcosa di diverso, perché anche i leader della Lega Araba sono stanchi di questo assistenzialismo che devono prestare continuamente nei confronti dei palestinesi, i quali purtroppo veramente dal punto di vista politico non fanno assolutamente nulla. Io non credo al gioco, fanno il gioco di Israele, in questo non ci credo. Io credo invece che dopo una incapacità dovuta un po' all'età, un po' alla malattia del presidente, un po' allo stesso fatto del non rinnovamento, della non volontà di rinnovarsi, di rimanere su posizioni che portando avanti in questo modo potranno solamente creare problemi ai palestinesi, che sia il Bahrain adesso, domani sarà l'Oman, certo, e dopodomani poi sarà sicuramente anche l'Arabia Saudita, questo è certo, ma anche perché poi voi mi insegnate che c'è tutto un gioco di alleanze nel Medio Oriente, nel Golfo, insomma, nei confronti di potenze come l'Iran, il Qatar, insomma, che hanno problemi e richieste diverse nei confronti poi di Emirati, Arabia Saudita e gli altri paesi. Quindi a me questo non meraviglia. Certo è importante ed è sintomatico pure come Netanyahu, che viene così osteggiato da tutti, riesca poi politicamente a fare queste cose che erano impensabili fino a qualche tempo fa. Dall'altro un piccolissimo dettaglio per far capire quanto sia politicamente scaltro: l'annuncio dell'accordo con gli Emirati, lui l'ha dato nel giorno che Gantz, il suo co-primo ministro, anche se in questo momento quasi dice, è entrato in ospedale per farsi operare alla schiena, anche per avere da solo, diciamo, la ribalta. Diciamo una spregiudicata malizia politica, ma Bibi Netanyahu ti ha abituato, tu lo segui da vicino, questo e altro, non c'è dubbio che quando si dice politico di lungo corso, Netanyahu incarni perfettamente questa figura. Grazie mille, Anello del Gatto, firma di Agi, racconta sia Israele che i territori da parecchio tempo, è sempre nostro graditissimo ospite. Nello, buona giornata, buon grazie lavoro, alla prossima. Grazie. È una puntata un po' ondivaga questa, è un po' perché si sta viaggiando tra India, Stati Uniti, Israele appunto. Proviamo a mettere a fuoco, abbiamo provato a mettere a fuoco, a mettere in luce quelle che sono le specificità dei sistemi parlamentari su tutti. Se dovessimo scegliere un hashtag è rappresentatività evidentemente, ma quindi anche diritto alla cittadinanza, ma anche efficienza dei processi legislativi dei parlamenti. Funziona di più un Parlamento con tanti membri? Ma soprattutto bisogna sempre parametrarlo evidentemente al numero dei cittadini, ma anche in ultima istanza a qualcos'altro, al sistema politico stesso, perché è chiaro che un sistema di tipo federale andrà, come dire, a mangiare, no, delle competenze e anche del tempo a quella che è l'assemblea di grado, tra virgolette, superiore. Vi avevo promesso allora il viaggio tra i sistemi parlamentari in 90 secondi, eccolo qui. Il Parlamento è il cuore della democrazia, ma come funziona nei diversi paesi del mondo? Ed esiste una formula per formare il Parlamento più rappresentativo ed efficace, oppure bisogna adattare il sistema alla natura del singolo paese? Per viaggiare attraverso i parlamenti mondiali, prima di tutto bisogna operare una distinzione. La maggioranza delle nazioni, il 58,3%, ha adottato un sistema monocamerale, mentre i paesi dotati di due camere sono solo 80, ossia il 41,7% del totale. Questa divisione non deve stupire. Se il sistema bicamerale viene ritenuto più democratico, perché permette una maggiore rappresentatività, solo il 45% delle nazioni può essere considerato una democrazia compiuta e nel conteggio sono compresi moltissimi paesi dove i parlamenti sono poco più di un fantoccio. Tra le democrazie mature, il Regno Unito guida la pattuglia delle nazioni con il maggior numero di eletti in proporzione alla popolazione, totalizzando complessivamente 1.477 parlamentari per 62 milioni di abitanti, ma l'Italia è seconda nel mondo con i suoi attuali 951 delegati per poco più di 60 milioni di abitanti. La situazione ovviamente cambia in base al sistema elettorale adottato e quando entrano in gioco stati federali come gli Stati Uniti, l'India o il Messico, dove molte delle funzioni attribuite altrove al Parlamento nazionale vengono delegate ai singoli stati. Ma come si fa a giudicare l'efficacia di un Parlamento? In base a quanti cittadini rappresenta o in base al numero di leggi prodotte? La domanda ricorre in tutti i dibattiti sul tema senza una vera risposta, ma se il bicameralismo perfetto è relativamente poco diffuso, gli stati nei quali una legge non può essere adottata senza il contributo di entrambe le camere rappresentano il 32,9% del totale. E come ci suggerisce Roberta Frisani, adesso è il momento di cambiare pagina, di voltare pagina e di parlare di un nemico dei sistemi parlamentari e rappresentativi che vi stiamo raccontando. Perché se è vero che illustri politologi e studiosi, scienziati politici, da anni, dalla nascita della democrazia, si arrovellano su come dare nella maniera più virtuosa, più efficace possibile voce alle varie istanze della cittadinanza, tutto questo può essere messo in pericolo semplicemente da una persona che, chiusa in uno studiolo, a un certo punto schiaccia un tasto. Miei concittadini americani, indipendentemente dalle vostre idee, da che preferiate un partito o non abbiate preferenze, il nostro futuro dipende dall'esercizio dei vostri doveri come cittadini. Votare, esprimersi, esporsi per gli altri. To vote, to speak out, to stand up for others. Lei condanna l'interferenza russa nelle elezioni americane? Da parte della Russia, così come da parte di chiunque altro. Il sistema americano di elezioni online è molto vulnerabile. Oggi esaminiamo le minacce cui sono esposte le nostre macchine per il voto. E se le persone che sostengono questi sistemi democratici dalla base cominciassero a farsi domande sulla loro validità? Notizia freschissima che Microsoft ha reso noto di aver rivelato cyberattacchi provenienti da Russia, Cina e Iran contro individui e organizzazioni politiche legate alla preparazione delle elezioni presidenziali americane. Secondo quanto afferma la società statunitense, gli hacker avrebbero preso di mira sia i team elettorali di Donald Trump che quelli del candidato democratico Joe Biden. In particolare, secondo Microsoft, sono stati rilevati 200 attacchi collegati a gruppi di hacker russi, mentre i tentativi di hackeraggio da parte cinese non riusciti hanno preso di mira direttamente le personalità politiche come Biden, appunto, o una persona, virgolette, precedentemente associata all'amministrazione Trump, questo secondo Microsoft. Per leggere tra le righe, visto che Donald Trump si è reso protagonista di una serie di purghe all'interno della sua amministrazione, è facile andare a stilare la lista di tutti quelli allontanati. Detto ciò, benvenuto e ben ritrovato nel suo luogo lontano Stefano Mele, presidente della Commissione Cyber Security, Comitato Atlantico Italiano. Avvocato Mele, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, ben ritrovato a lei e a tutti voi. Allora, Mele, c'è di che preoccuparsi se non fosse che è una storia che mi sembra abbiamo già letto altre volte. Beh sì, è una storia che si ripete con una costanza addirittura chirurgica, non solo quando c'è l'elezione del Presidente degli Stati Uniti, ma quando abbiamo l'elezione di organi particolarmente influenti e rappresentativi di qualsiasi Stato che sia utile, tra virgolette, cercare di manipolare soprattutto quando si tratta di particolari nazioni, a detta di Microsoft, appunto Russia, Cina, Israele, in questo caso. L'abbiamo visto nel 2016, abbiamo visto lo strascico di indagini che il governo americano, fra parentesi a livello bipartisan, ha messo nero su bianco in 5 report enormi per l'elezione del 2016, e ovviamente, come era da aspettarsi, questa cosa si sta riproponendo ovviamente anche per il 2020, certo, con i nuovi attori che negli ultimi 4 anni hanno cominciato a essere sicuramente sempre più a primeggiare, anzi, nella parte cyber, e quindi non soltanto i russi, ma soprattutto anche cinesi e iraniani. Niente di nuovo sotto il sole, però c'è da monitorare con grandissima attenzione. Assolutamente, mi verrebbe da dire che di nuovo c'è una rinnovata preoccupazione per questo importante appuntamento elettorale. Il 3 novembre si decide il destino politico, evidentemente, della più potente nazione sulla faccia della terra. Adesso qualcuno osteggerà questa mia dichiarazione. Stefano Mele, siamo davvero in ritardissimo, ma mi riprometto di risentirci a brevissimo, perché come l'impressione che questa vicenda avrà vari strascichi. Lo ricordo, Stefano Mele, presidente della Commissione Cyber Security, Comitato Atlantico Italiano, a cui, chiedo scusa, ho tarpato leggermente le ali, ma Mele, c'è qualcuno che mi tira per la giacchetta. You're fired. E quindi un ringraziamento a voi tutti, alla squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è per lunedì ore 16. Un saluto, un buon weekend da Giampaolo Musumeci. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.